Molto difficile parlare del rispetto reciproco della coppia, anche perché dopo 35 anni di esperienza matrimoniale devo riconoscere che molti aspetti della vita coniugale mi sono ancora oscuri. È vero che vi sono quelli che hanno una risposta ad ogni problematica matrimoniale, ma ho conosciuti alcuni di questi che si sono divisi nonostante possedessero una ricetta per ogni cosa. Poiché il rispetto è l'ingrediente che fa convivere bene non solo nel matrimonio, ma anche in ogni altro rapporto, prendiamo in esame la definizione di un dizionario. Il rispetto è il sentimento per cui si riconosce con affettuosa e devota sottomissione la superiorità morale e sociale di una persona. Il rispetto è dunque riconoscere ciò che è dovuto. Calato nella realtà quotidiana, il rispetto è esercitato ogni momento. Vi è il rispetto ai genitori, il rispetto alle autorità civili, il rispetto alla bandiera. L'aspetto più importante del rispetto è forse un altro. Rispettare, o il rispetto, deriva da una parola latina che vuol dire guardare indietro. In effetti, quando si rispetta qualcuno o qualcosa, non ci rendiamo conto che stiamo guardando indietro. Noi portiamo rispetto ai genitori, non tanto per quello che sono ora, ma per ciò che hanno fatto. Forse i nostri genitori sono vecchi, incapaci, sclerotici o ancora peggio, ma noi li rispettiamo memori del loro amore per noi. Essi ci hanno dato la vita, nutriti, corretti, anche se tutto questo non in modo perfetto. Come del resto anche noi stiamo facendo ugualmente con i nostri figli. Lo stesso vale anche per il rispetto alla bandiera. Forse se guardiamo i nostri connazionali in questo momento siamo sfiduciati e non ci sentiamo incoraggiati ad essere rispettosi nei confronti del simbolo della nostra patria, ma la bandiera ci ricorda di uomini che ieri hanno sacrificato la loro vita perché potessimo vivere in pace e in sicurezza oggi. Questo solo aspetto ci porta ad avere rispetto per i morti in guerra. La stessa cosa vale per il rispetto della coppia. Tu sei sposato con lei. Nella tua libertà hai scelto lei e non un'altra. Tu sei sposata con lui. Nella tua libertà hai scelto lui e non un altro. Forse oggi il tuo matrimonio è in crisi, forse pensi di non aver scelto la persona giusta, forse hai dei dubbi sul futuro del tuo matrimonio, forse ti chiedi come puoi rispettare il tuo partner così com'è. Forse hai anche ragione. Ma se rispettare il coniuge significa non vederlo solo al presente o nel futuro, ma soprattutto nel passato, allora le cose cambiano. Il vostro rapporto all'inizio non era così. La situazione attuale si è venuta a creare lentamente, ma in principio nel vostro matrimonio non vi erano solo nuvole. Le cose sono cambiate. Per questo deve venire meno il rispetto? Se i miei genitori sono diventati vecchi sclerotici, devo per questo venir meno nel rispetto? Ho il diritto di non essere affettuoso, tenero, sensibile. Ho forse il diritto di venir meno al rispetto della bandiera, perché ci sono dei miei connazionali sciagurati. Tu hai scelto lei per un motivo. Lei ha scelto te per un motivo. Forse la ragione della crisi del vostro matrimonio è perché avete dimenticato il motivo per cui vi siete scelti. Forse avete bisogno di ricordare per un istante perché oggi siete sposati. In un convegno dedicato alle coppie è stata data una busta con la scritta: "Io ho scelto te perché". Per aiutare i partecipanti al convegno vi erano alcune motivazioni. "Io ho scelto te perché sei simpatica, dolce, affettuosa, gentile, comprensiva, sensibile, pratica, dinamica". Oppure, "per gli occhi azzurri, per i tuoi capelli, per il tuo sorriso". Alla fine dell'incontro, ognuno consegnò il foglio al suo partner. Al di là delle risposte e dei risultati, ogni coppia fece un atto di rispetto, cioè guardò nel passato le motivazioni positive per cui erano sposati. Ognuno riconobbe i diritti e la personalità dell'altro, astenendosi da ogni manifestazione che poteva offenderlo. Facciamo ora un'applicazione del principio del rispetto in merito a Dio. Forse qualcuno penserà che ciò sia una forzatura da parte di un fanatico che vuole parlare di Dio in ogni situazione, ma Gesù stesso, se vogliamo prenderlo come esempio, introdusse l'argomento di Dio nel momento meno opportuno. Degli erodiani, giudei che occupavano posti importanti e favorevoli agli Erodi, vollero cogliere in fallo Gesù, perciò chiesero se era lecito pagare le tasse a Cesare. L'Evangelo di Marco continua dicendo: ma Gesù, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: perché mi tentate? Portatemi un denaro perché lo veda. Essi glielo portarono. Ed egli disse loro: di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro: rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio. Gli erodiani avevano posto a Gesù una domanda di carattere sociale, pratico e, se vogliamo, tendente all'avarizia. Ma Gesù, dopo aver risposto a tono, introdusse senza alcuna apparente ragione l'aspetto della necessità di essere anche debitori verso Dio, di rendere ciò che gli aspettava. Per Gesù sociale e religioso coesistono. Forse uno degli errori fondamentali di chi si professa cristiano consiste proprio nel separare la vita quotidiana dal religioso. Proprio per questo, l'aspetto del rispetto di coppia deve essere un motivo di riflessione del rispetto che si deve dare a Dio. Alcune persone, quando sentono la parola Dio o sentono parlare del Vangelo di Gesù Cristo, non sono contrarie, ma non sanno come devono comportarsi. Così, prendiamo in esame un rimprovero dell'Eterno Dio: un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre Dov, è il mio onore? E se sono signore Dov, è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti a voi sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Malachia 1:6. Simili domande poste dall'Eterno Dio possono essere ignorate. L'Eterno chiede il rispetto, cioè onore, nei suoi confronti, almeno come si onorano i genitori. In questo brano non chiede di essere riconosciuto come sovrano o signore, ma chiede di essere ricordato per quello che ha fatto, esige che i suoi diritti siano riconosciuti. Cosa ha fatto l'Eterno Dio per l'uomo? L'Eterno Dio ha creato una creatura, quale noi siamo innanzitutto a sua immagine. Se per un attimo riusciamo a pensare all'immenso creato cosparso da miliardi di galassie, ai milioni di creature che esistono sulla Terra, creature stupende e grandissime come la balena, se dopo aver preso coscienza di tutto questo consideriamo l'uomo, ci viene giustamente da chiedere: cos è l'uomo? Cosa siamo noi che dipendiamo da un fugace respiro? Eppure, nessuna cosa, nessun essere in cui vi è alito di vita, è stato creato a immagine di Dio. Inoltre, l'Eterno Dio ha creato l'uomo perché fosse felice. Non solo l'ha creato simile a lui, ma lo ha creato con l'obiettivo che potesse godere della felicità che vi è in seno alla Trinità. All'inizio era così. Poi, qualcosa è cambiato. L'uomo ha scelto di voler essere indipendente da Dio. Con una testarda volontà ha fatto di testa sua, e per questo si è trovato in molti dolori e in un'indicibile sofferenza da lui stesso prodotti. Noi siamo abituati a guardare la situazione attuale della vita con gli occhi di oggi. Diciamo che se ci fosse un Dio di amore, le cose non andrebbero così. In definitiva, facciamo come due sposi che guardano i loro conflitti attuali e vogliono divorziare. Ma all'inizio, sia per il matrimonio, sia per la razza umana, le cose non erano così. Cosa ha fatto Dio per l'uomo? Impossibile elencare tutta la sua opera, perciò, tra le cose belle che Dio ha fatto a favore dell'uomo è che gli ha scritto una lettera. Questa lettera è la Bibbia, il libro che moltissimi posseggono. Chi vuole rispettare Dio leggerà la lettera d'amore che Dio gli ha inviata e custodita per lui. Ho visto in un ricovero un uomo che sapevo orfano e che aveva un rispetto particolare per una donna anziana. Mi sono informato e ho saputo che questa donna l'aveva allevato da piccolo con tanto affetto fino al giorno che si era sposato. Questo uomo onorava in modo particolare quella signora anziana non tanto per la sua tarda età, ma per quello che lei aveva fatto nei suoi confronti. Oggi ci sono uomini che parlano di Gesù Cristo in modo particolare. Ne parlano come il loro Signore e Salvatore. Se considerate la loro vita, verreste a sapere che un giorno essi erano senza meta, con un vuoto incolmabile nella loro anima. Hanno udito il messaggio di Cristo, sono venuti a Sapere che Cristo era morto per i loro peccati, senza porre condizioni e senza chiedere nulla. Hanno posto fede e, per riconoscenza e rispetto, ora ne parlano a tutti. Si dice di amare Gesù Cristo. Si esprime il proprio favore a suo riguardo, ma rispettare Gesù significa anche annunziare che Egli è morto per me, per tutti, e vivere di conseguenza. È per questo che un giorno alla settimana i figli di Dio, riscattati dal sangue di Cristo, si radunano per ricordare la morte di Cristo. Rispettare o onorare il nostro partner è forse il traguardo che pochi riescono a raggiungere, come in certe gare. Molti sono quelli che partono, pochi arrivano, uno solo ottiene il premio. Mettersi insieme è un inizio, camminare insieme è un progresso, ma rimanere insieme felicemente fino alla morte è un successo. Nessuno può rispettare il proprio coniuge se prima non rispetta Dio. Non è possibile rispettare il coniuge per il coniuge. Per istinto naturale tutti siamo fragili e limitati. Nessuno di noi è in grado di protrarre un rispetto per 30, 40, 50 anni al proprio coniuge. Ecco perché riconoscere i diritti e rispettare la personalità di un partner è possibile solo quando tali atteggiamenti sono rivolti prima a Gesù Cristo. Il discorso di Dio dunque nell'ambito del rispetto di coppia non è facoltativo. Non è introdurre un argomento religioso inutile quanto inopportuno, ma è la linfa vitale dell'armonia di una coppia. Una coppia si rispetta, si comporta in modo da non offendere il proprio partner, si dona in proporzione al rispetto che ha nei confronti di Gesù Cristo, diversamente non vi è speranza, non vi sono alternative. Se vuoi che nel tuo matrimonio ci sia del rispetto, devi prima sottometterti all'autorità di Dio, rispettarlo e il rispetto nella coppia è garantito. Non sarà il rispetto del tuo partner nei tuoi confronti, ma il tuo nei suoi confronti. Così, anche nel tuo matrimonio, per quanto possa andar male, ci sarà il rispetto. Il tuo. Questo non è poco. Giugno 2004, Ellero,